un'altra sigaretta per evitare di parlare ancora. La luna è solo un'illusione. Se vuoi possiamo dirci addio o arrivederci. Eppure scrivi le canzoni. Dovresti amare più degli altri oppure no? A me piace come guardi il mondo, come se fossi un turista giapponese. Se vuoi possiamo dirci addio o arrivederci. Soffio un vento fresco al centro sud, mi abbandono alla marea. Oro sulle labbra tue, scompare la città. Se siamo nudi, nudi, nudi, che serve difenderci? Facciamo un giro in bicicletta. Questa notte sembra scritta un po' di getto, eppure nel mio cuore agosto. L'astrologia, la musica, Milano, mi dispiace per tuo padre. Se vuoi possiamo dirci addio o arrivederci. Ore al telefono, il tuo nome è nostalgia. Soffio un vento fresco al centro sud, mi abbandono alla marea. Oro sulle labbra tue, scompare la città. Se siamo nudi, nudi, nudi, che serve difenderci? Io so chi sei tu, fanno a pezzi e passiamo i giorni a raccoglierli. Ore al telefono, il tuo nome è nostalgia. Soffio un vento arrivederci.